nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Mi stava venendo da dire sempre un po' io, ma non lo sono. Ops, buongiorno, buongiorno. Mi sono ritrovata un po' in queste qualità estetiche. Lasciamo perdere, passiamo oltre, glissiamo con eleganza. Cominciamo che non è il momento di la settimana mettersi a discutere esatto. su dettagli anatomici, invece ecco, è il momento di guardare come vanno le borse, e lo faremo tra poco, guardare come le ma magari anche se ti apri il copione di raccontare dove siamo oggi, ma soprattutto di dire che anche oggi ti ho portato a spasso. Esatto, mi hai fatto fare questo weekend lungo da Genova, siamo passati direttamente a Bologna, quindi dall'imbarcazione siamo venuti a vedere come potremmo arredare il bagno di questo strepitoso yacht che mi comprerai al più presto. Siamo a Cersaie, infatti, che è il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredo Bagno. Una bella vetrina. Sì, una vetrina tra l'altro dove ci sono 869 espositori, 41 nazioni, e tra l'altro ci sono una quantità di stranieri, cioè una quantità di stranieri importante, perché si sentono parlare un po' tutte le lingue del pianeta qui all'ingresso del Cersaie. Venite a trovarci se volete. Siamo proprio appena dopo l'ingresso nello stand di Radio 24. Attaccati ai tornelli praticamente, timbrate il vostro biglietto e ci vedete subito, perché lo stand di Radio 24 è molto chiaro. Essendo venuti in questa manifestazione, come sempre ci occuperemo della casa oggi per tutto il programma, quindi sia dal punto di vista estetico, per capire quali sono anche le novità che il Cersaie presenta quest'anno e quanto possono spendere le famiglie italiane per rendere bella la casa che hanno in mente di ristrutturare, ma anche per renderla sicura, Mauro, perché sì, anche questo sarà un bel tema di oggi. Sì, perché parleremo del Sisma Bonus, che è un bonus magari meno conosciuto degli altri, di quelli più famosi per l'edilizia, ma che è più conveniente perché si può detrarre in meno annualità, e quindi faremo capire come si può accedere a questo particolare tipo di incentivo fiscale. Per tutti questi argomenti, come sempre, anche se siamo a Cersaie, ci potete raggiungere con il numero verde che è l'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666. Noi oggi non vediamo WhatsApp, da qua magari ce li gira Marco Lombardo, che è il nostro assistente da Milano, mentre qui con noi c'è Barbara Bianchi stamattina, e però possiamo vedere i vostri sms, appunto, per cui potete raggiungerci, come vi dicevo poco fa, in qualunque modo, anche con la mail che è la solita. Sì, due di denari, @radio24.it. Prima di partire però con questi argomenti, direi di dare un'occhiata a come si apre la settimana sui mercati finanziari. Meteo Borsa. E naturalmente guardiamo come si apre la settimana sui mercati finanziari all'indomani delle elezioni politiche federali in Germania, che hanno visto l'affermazione dei cristiano-democratici di Angela Merkel, con questa forte anche presenza, con questa forte affermazione dell'estrema destra, che è stata vista da qualcuno con un pochino di preoccupazione, soprattutto per quello che poteva essere l'effetto stamattina sui mercati finanziari, che è totalmente inesistente invece, Marco, perché le borse direi che trascurano alla grande il risultato elettorale tedesco. Andiamo a vedere allora la partenza per l'Europa. Milano è sulla parità. Francoforte è addirittura positiva, sta guadagnando lo 0,3%, e leggermente negativa Parigi, meno 0,03%. Ma sui temi di oggi e sui temi della settimana interpelliamo un esperto, che è Marco Piersimoni, Senior Portfolio Manager di Pictet Asset Management. Buongiorno Piersimoni e benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, i mercati non si aspettavano grandi sorprese da queste elezioni, ma il risultato molto elevato per il partito di estrema destra forse rappresenta uno scossone. Come lo valutate voi? Non abbiamo visto effetti stamattina, ma li vedremo a breve, magari con un'accentuazione della volatilità sui mercati. Piersimoni? Ma oggi succede molto poco, probabilmente non succederà granché nell'immediato. Perché? Perché tutto sommato ci sarà ancora un governo presieduto da Angela Merkel, e questo per il mercato è abbastanza rassicurante. Quello che rassicura meno saranno i compagni di viaggio di Angela Merkel, che si dovrà trovare una coalizione diversa da quella con cui ha governato negli ultimi anni, e una coalizione in cui sembra oramai abbastanza probabile che ci sia il partito dei liberali, che di sentir parlare di nuova Europa, di maggiore integrazione, onestamente non hanno tanta voglia. Per cui un problema non oggi, non per domani, ma per le prossime settimane e mesi qualcosa forse sì. Tra l'altro oggi Mario Draghi interviene al Parlamento europeo, quindi anche da lì potremmo capire qualche cosa di più. Aspettiamo sempre naturalmente questa riduzione del quantitative easing, lo vedremo a ottobre, a quanto abbiamo potuto capire. A quanto ci hanno fatto capire, ottobre potrebbe essere il mese in cui la Banca Centrale Europea ci dirà come proseguirà il quantitative easing, perché se non succede niente il quantitative easing in teoria dovrebbe finire il 31 dicembre 2017. È chiaro che si andrà avanti, è chiaro che l'euro forte mette sotto pressione l'inflazione, ossia l'inflazione è troppo bassa per la Banca Centrale Europea e l'euro forte contribuisce a tenerla bassa, per cui il quantitative easing durerà anche l'anno prossimo, per quanti mesi, in che ammontari, è tutto da discutere e probabilmente a ottobre ne sapremo qualcosa in più. Tra l'altro, a proposito di rapporto euro-dollaro, stamattina siamo sotto 1,19, per cui in realtà un po' l'euro ha perso un pochino di smalto, se vogliamo, sul biglietto verde. Parlavamo di dicembre come il termine naturale per il quantitative easing di Mario Draghi e potrebbe essere anche il mese decisivo, Pier Simoni, per un nuovo intervento sui tassi di interesse invece della Banca Centrale Americana, per cui ormai sulla strada della normalizzazione della politica monetaria mi pare che sia inevitabile andare, e le banche centrali sono del tutto intenzionate, anche se con molta gradualità, ad andare verso questa direzione. Certo, oramai le banche centrali, a cominciare da quella canadese, da quella inglese, da quella australiana, insomma, tutte si sono fatte sentire per un sentiero di normalizzazione. La Fed l'ha iniziato da tempo, lo ha interrotto e probabilmente ci ha fatto capire che in realtà questo sentiero di normalizzazione procederà nel corso dei prossimi mesi. Io direi che però la cosa più importante nel breve termine, più che le banche centrali, in questa settimana, in particolare oggi, sono le notizie dal punto di vista fiscale in America, perché oggi i cosiddetti Big Six, ossia i sei membri dell'amministrazione americana in carico di ruoli chiave nei ministeri delle finanze e delle commissioni parlamentari, dovrebbero dare qualche dettaglio in più su una delle grandi promesse di Trump, che è il taglio delle tasse. Questa, a mio modo di vedere, nel breve termine, è una cosa importante per i mercati, una cosa cui i mercati guarderanno, e vedremo se effettivamente questo piano convincerà e le tempistiche anche con cui si avrà l'intenzione di portarlo avanti. Che è stato un pochino anche il tema, se vogliamo, messo da parte, perché l'attenzione di Trump è stata dirottata alle questioni internazionali per le tensioni con la Corea del Nord negli ultimi giorni, anche un po' con l'Iran dopo il suo primo intervento alle Nazioni Unite. In realtà deve tornare ad occuparsi anche delle importanti vicende domestiche, perché è chiaro che c'erano delle evidenti promesse elettorali a cui deve dare in qualche maniera una risposta. Un ultimo controllo su Piazza Affari, Mediaset miglior titolo più 1,72%, Saipem più 1,63%, Recordati più 1,51%, Yux e Net-a-Porter più 0,95%, quindi un quadro piuttosto eterogeneo stamattina tra i migliori titoli di Piazza Affari. Per quello che riguarda invece i peggiori, abbiamo vendite abbastanza diffuse su tutti i titoli del settore bancario. C'è un settore, Pier Simoni, che nei prossimi giorni dobbiamo monitorare in maniera più attenta rispetto agli altri? Sì, io direi due nomi, uno è quello che hai citato tu, per cui il settore bancario certamente è importante, e poi seguire con attenzione il settore dell'energia. Il settore dell'energia che ha sofferto tantissimo da inizio anno, anche oltre i demeriti derivanti dalla discesa del petrolio, per cui io direi occhi su questi due settori, finanziari ed energia. Grazie a Marco Pier Simoni, buona giornata e buona settimana. Grazie a tutti, buona giornata. Way too long, take me back to my home, sweet home. La radio è di casa. Infatti ci troviamo bene qua. Sì, beh, noi adesso veramente saremmo in trasferta, però non stiamo a guardare il capello, come si dice. No, è di casa perché parliamo di casa dal Cersaie, e non si poteva fare altrimenti. È il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredo Bagno. E allora, noi abbiamo una graziosa ospite, Rita, esatto, Campana, che è architetto. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. E poi abbiamo in collegamento da Milano, lui invece sì, è a casa, in un certo senso, Cristiano Dell'Oste, del Sole 24 Ore. Buongiorno Cristiano. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, abbiamo Cristiano, perché Cristiano, come si sa, è colui che si occupa più spesso al Sole 24 Ore. È proprio laureato in fisco della casa, com'è sì, che diciamo in, lo prendiamo sempre un po' in giro, ma in realtà... In fisco edilizio, potremmo dire. Lui ha questa cattedra di fiscalità edilizia e quindi è qui per spiegarci soprattutto il Sisma Bonus, che è la novità del 2017, una novità peraltro imposta dalle vicende del terremoto in centro Italia, quindi un intervento che il governo ha deciso con la legge di bilancio che è stata varata a dicembre dell'anno scorso proprio per cercare di incrementare questo tipo di interventi. In realtà esistevano già delle agevolazioni precedenti, ma non sono mai state particolarmente sfruttate. La sicurezza antisismica non è forse tra i nostri primi pensieri, vero Cristiano? È un po' negletto, come si dice, questo incentivo. Eh sì, è uno di quegli argomenti di cui la sicurezza antisismica, intendiamo, è uno di quegli argomenti di cui si parla sempre all'indomani di terremoti o comunque di calamità naturali e che poi gradualmente finisce sotto traccia fino a sparire nel dimenticatoio quando è passato un po' di tempo. Quindi noi viviamo un po' questa cultura dell'emergenza che non aiuta la prevenzione. La scommessa del Sisma Bonus è proprio quella di utilizzare uno strumento che esiste già da tanti anni e che i contribuenti conoscono bene, che è quello delle detrazioni fiscali sui lavori, di usarlo, dicevamo, per incentivare la messa in sicurezza antisismica degli edifici, in particolare degli edifici che si trovano nelle zone a maggior rischio di terremoto. Ecco, dobbiamo dire due cose, Cristiano. L'una è che zone a rischio di terremoto e quindi che possono accedere al Sisma Bonus ce ne sono molte, ohimè, in Italia, cioè l'attivazione del Sisma Bonus è possibile non solo e non soltanto nelle zone, come dire, che sono state colpite dal terremoto dello scorso anno, ma anche in molte altre parti del territorio italiano. Certo, una delle novità del 2017 è stata proprio l'estensione del Sisma Bonus alla zona sismica 3. Noi sappiamo che secondo la mappatura utilizzata dalla Protezione Civile, il territorio italiano è diviso in quattro zone di pericolosità sismica, scusate, la 1, la 2, la 3 e la 4. La 4 è quella meno pericolosa ed è l'unica che rimane fuori, quindi possiamo dire che più della metà del territorio italiano presenta oggi le caratteristiche per poter accedere al Sisma Bonus. Per intenderci, c'è una sola regione italiana che è tutta in zona 4, che è la Sardegna, per la sua collocazione, diciamo, al di fuori delle aree di maggior rischio, ma possiamo dire che di fatto tutta l'Italia centro-meridionale è ammessa al bonus, vastissime parti della Toscana, dell'Emilia-Romagna, ma anche ampie porzioni di regioni, possiamo dire, un po' insospettabili dal punto di vista del rischio sismico, come la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e il Veneto. Allora, ricapitoliamo un po' gli elementi essenziali. È una detrazione innanzitutto, quindi è uno sconto dall'IRPEF che si deve pagare annualmente con la dichiarazione dei redditi. Di solito tutti conosciamo il 50% di detrazione per i lavori in casa, qualche volta il 65% se abbiamo dei miglioramenti di tipo energetico. Questa è una detrazione ancora più elevata e poi sappiamo che il 50-65% hanno 10 anni di recupero, cioè bisogna spalmare la spesa sulla nostra IRPEF per 10 anni, per 10 annualità, invece questa è ridotta a 5. Completiamo questo discorso, Cristiano, con le percentuali possibili? Sì, certo, le percentuali cambiano in base al miglioramento della stabilità sismica dell'edificio. È stato varato un decreto la scorsa primavera che permette di fatto di dare una pagella di stabilità sismica a ogni singolo immobile. In base all'entità del miglioramento, appunto in base a questa pagella, la percentuale diventa tanto più alta. Quindi, se si fa un intervento che non crea alcun tipo di miglioramento, facciamo l'ipotesi base, che ovviamente è quella meno sensata ma che esiste, in questo caso la detrazione è del 50%, quindi quella analoga, per intenderci, a quella per la ristrutturazione non qualificata. Se la classe sismica dell'edificio viene migliorata di una, quindi si migliora di un voto in pagella, per così dire, la detrazione è del 70%. Se invece si migliora di due classi, la detrazione è dell'80%, quindi in pratica nell'arco di 5 anni viene rimborsato sotto forma di sconto dall'IRPEF, che deve essere pagata annualmente, l'80% di quanto speso, non solo per realizzare i lavori, ma anche per quelle spese, diciamo, preventive per la classificazione e la verifica sismica dell'edificio, per capire se effettivamente i lavori sono necessari. C'è poi un'altra cosa da dire, che se questi interventi vengono fatti su parti comuni condominiali, allora in questo caso entrambe le percentuali sono un pochino più elevate, cioè quel 70% che abbiamo appena visto diventa 75, quell'80% diventa 85. L'ultima cosa che ci viene dalla domanda di un ascoltatore che ci ha mandato un SMS al 349-238-6666, dice: gli incentivi saranno validi per il 2018, allora diamo la temporalità, quanto dura questa finestra per utilizzare il sisma bonus? Qui il legislatore ha fatto una scelta coraggiosa che si era vista raramente con i bonus edilizi, li ha confermati già con la legge di bilancio dello scorso anno fino alla fine del 2021, quindi abbiamo un orizzonte lungo davanti. Questa è una buona notizia. Bisogna anche dire, per correttezza, che sono stati chiesti alcuni ritocchi al sisma bonus che potrebbero entrare nella prossima legge di bilancio, che dovrebbero però andare soltanto nella direzione di renderlo ancora più efficace. Vedremo poi se questo accadrà, però la disciplina attualmente è confermata fino al 2021 e questa è una buona notizia, perché si tratta di interventi comunque molto costosi e che quindi hanno bisogno di tempo per essere pianificati e ultimati. Clelia chiede, tra l'altro sempre attraverso gli SMS, se per Roma sono previsti questi incentivi. Sì, perché il Lazio è tra le regioni contemplate nella zona 1, quelle a sismicità alta. Rita Campana, il nostro amico architetto o architetta, non so se ha la passione per le declinazioni di genere delle professioni, io non tanto, ma... Rita è un'amica, perché in realtà è proprio con lei che ci siamo inventate lo spazio La Radio è di Casa, e per gli ascoltatori della nostra precedente trasmissione, dove Mauro ancora non veniva a trovarci, ma adesso magari gli faccio riascoltare tutti i podcast e li riascolterà sicuramente volentieri. Abbiamo... Assolutamente. Ogni mese prendevamo praticamente una stanza e con l'aiuto di Rita Campana provavamo a dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori di ristrutturazione, chiaramente tenendo sempre a mente un giusto rapporto qualità-prezzo, certo, tra quello che è necessario fare, quello che ci piace fare e quanto costa il tutto. Il tema della sicurezza strutturale, Rita, sì, è un tema sentito oggi fra i clienti degli architetti, o comunque si ostinano ancora a chiedere una consulenza per riarredare dal punto di vista, con un'attenzione prevalentemente estetica, diciamo, o vi chiedono anche una maggiore consulenza anche dopo tutti i fatti che sono capitati in Italia su questo punto? Sì, devo dire che quando si pensa alla ristrutturazione si pensa più che altro a un miglioramento estetico del proprio immobile. Però devo dire che sta aumentando questa consapevolezza dell'importanza della sicurezza strutturale, che devo dire che è fondamentale, visti appunto anche poi i recenti eventi sismici degli ultimi anni. Sicurezza strutturale che va valutata naturalmente sempre con l'aiuto del professionista, in base allo stato dell'immobile, alla tipologia edilizia, agli interventi necessari, anche secondo appunto la normativa vigente, e anche in base al budget che abbiamo a disposizione. Certo. E poi è chiaro che la scelta va fatta in relazione anche al punto in cui si abita. Se si sta in condominio, le scelte che si possono fare sono di un certo tipo; se si sta in un edificio indipendente, si può fare tutto quello che si vuole, più o meno. Ecco, poi non... diciamo che se siamo appunto in un edificio indipendente, il professionista ci aiuterà a valutare quali sono le strutture sulle quali agire, come ad esempio potrebbero essere le murature portanti, i solai, la copertura, mentre se siamo in un'unità immobiliare all'interno di un condominio, gli interventi che possiamo effettuare in autonomia sulla nostra unità sono limitati, perché naturalmente fa parte di un intero organismo edilizio, quindi ogni intervento che noi andiamo ad eseguire deve tenere conto poi delle ripercussioni che avrà sull'intero edificio. Quando arrivano queste fiammate di incentivi fiscali, l'interesse aumenta? Sì, aumenta. Vero, devo dire che è un buon modo per sensibilizzare un tema veramente importante, perché oggi il nostro patrimonio edilizio è molto vecchio, è molto vecchio. Tra l'altro, questo tipo di intervento, ma chiedo il conforto di Cristiano da Milano, questo tipo di intervento è anche per le seconde case. Sì. Perché è possibile anche richiedere appunto il sisma bonus anche sia per la prima casa, seconda casa, seconda attività casa produttive. Poi appunto, come insomma, se ne è parlato anche prima, appunto, anche per il discorso degli incentivi sul condominio viene aumentata la percentuale, proprio perché poi naturalmente per portare in sicurezza diverse unità immobiliari all'interno di un intero organismo edilizio, chiaramente i budget sono anche decisamente più elevati. Allora, intanto continuano ad arrivare molti messaggi, adesso andremo a controllare anche le telefonate. Nicola fa una domanda proprio a Rita, cioè lui proprio specifica, non dice Cristiano, Mauro, Debora, no, Rita. Cosa ne pensa delle case prefabbricate in legno? Allora, diciamo che a Cersaie non troviamo novità su questo, a meno che non mi sia sfuggita qualche sala particolare, ma è un settore che va di moda? Allora, si sta ampliando moltissimo. In Italia sta facendo un po' fatica. No, io lo vedo su Fine Living, ci sono le mini case di lusso, quindi vedo di tutto. In Italia siamo ancora tanto legati al mattone, ma è un settore che si sta ampliando moltissimo anche in Italia, perché le case prefabbricate hanno comunque dei grandissimi vantaggi a livello sismico, a livello di efficienza energetica. E devo dire che è un settore che a me piace molto. Piace molto, hanno tempi di costruzione velocissimi, quindi ecco. Insomma, quando ben costruite, ben progettate, la trovo una tipologia edilizia molto interessante. Magari con tutte queste trasferte, Mauro, ci facciamo fare la casetta di legno portante su guidi. Se andiamo avanti così è meglio il camper, però per questo bisogna aspettare un altro tipo di manifestazione fieristica, io credo. C'è anche qualcuno, tu non lo vuoi leggere questo messaggio, che dice scegli lo yacht che vuoi, cara Debora, offro io. Luca Milano, io dico anche il nome così almeno inchiodato le sue responsabilità. L'ha detto, si è offerto, quindi esatto. Scegli pure lo yacht che vuoi. Preferisco il messaggio di Mauro da Cisterna di Latina. Nel mio comune la zona sismica è la 3A, rientra negli incentivi. Allora, anche per capire con Cristiano, se la regione ha sismicità 1, significa il massimo grado di allerta che dobbiamo avere abitando lì, Cristiano, o comunque anche città per città, le città hanno una diversa, diciamo, gradazione di rischio. Sì, certo, c'è una mappatura che si può riscontrare dal sito della Protezione Civile, che sta sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni caso le zone ammesse sono la 1, la 2 e la 3. La 3A è una variante della zona 3, quindi è pienamente ammessa. Quella che rimane fuori è soltanto la zona 4, che viene ritenuta appunto a sismicità bassa. Peraltro bisogna dire che nella zona 4 non è che non ci sia nessuna detrazione fiscale. Esiste la possibilità di fare quello che si faceva già prima che venisse introdotto il sisma bonus, cioè di utilizzare le normali detrazioni per il recupero edilizio, che tra i vari lavori che agevolano prevedono anche la messa in sicurezza statica degli edifici in funzione antisismica. Grazie Cristiano. Allora, temo che noi ci si debba però fermare un attimo per tornare a dare uno sguardo. Tu puoi prenderti una pausa, ma io devo continuare ancora a lavorare. E allora, Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Una vecchia mattonella per ballare tête à tête. Quando a Marco Lombardo ho chiesto a Rita Pavone il ballo del mattone, non ci siamo capiti, forse c'era qualche disturbo sulla linea telefonica. È che lui ha voluto allinearsi ai tempi di recupero del bonus, e siccome recuperi in 10 anni ha messo uno slow di Renzo Arbore per far capire che ci vuole un po' di pazienza recuperare il tutto. Ma c'era un ascoltatore che poneva al telefono, mi pare, una domanda interessante. Allora, sì, era Ermanno da Modena che aveva chiamato, non può intervenire in diretta, ma ci rilascia la sua preziosa domanda. La normativa vale solo per abitazioni... Scusa, quello che adesso ci si appoggiava molto bene al tema che volevamo affrontare. Walter da Bergamo. Buongiorno, Walter. Buongiorno a tutti. Allora, io sono un pensionato... Sto valutando la possibilità di una ristrutturazione utilizzando anche il sisma bonus. Sì. Mi pare di aver letto che per i cittadini che hanno poco reddito, in caso di abitazione in condominio, possano cedere questo credito alle imprese. Sì, sì, no. Benissimo Walter. No, no, la domanda è molto chiara, riguarda la cosiddetta incapienza, cioè, poiché questo è uno sconto dall'IRPEF, se uno paga poca IRPEF, perché guadagna poco, o dichiara poco, ma questo sarebbe un altro paio di maniche, perde molto. Chiaramente non può magari utilizzare tutto lo sconto che gli viene assegnato. Però c'è una novità importante, che è la possibilità di cedere, se uno sta in condominio, il suo bonus non utilizzato. Cristiano Dell'Oste ce lo spiega. A chi può cederlo? Al vicino di casa? Eccoci, allora diciamo che la cessione della detrazione è un tema abbastanza delicato, perché è vero, è stata introdotta la possibilità di cedere il bonus, ma con una serie di limiti che bisogna tenere ben presenti. Intanto, rispetto al sisma bonus che abbiamo citato in precedenza, dobbiamo dire che possono essere ceduti ad oggi soltanto i bonus del 75 o dell'85%. Quindi questo vuol dire i bonus per detrazioni relative a interventi su parti comuni in condominio che migliorano la sicurezza dell'edificio di almeno una classe sismica o di due classi sismiche, che sono appunto agevolati con queste percentuali. Poi chi può cedere? Possono cedere tutti i beneficiari della detrazione, quindi diversamente dalla possibilità di cessione che riguarda un altro bonus di cui magari poi faremo un'altra puntata, che è quello del risparmio energetico, in questo caso la legge non richiede espressamente la condizione di incapienza per poter cedere il bonus. Detto diversamente, io potrei cederlo anche perché ritengo che mi convenga, anche se avrei teoricamente abbastanza IRPEF da poter assorbire la detrazione. Detto questo, c'è da chiedersi a chi si può fare la cessione, e qui abbiamo una limitazione forte, nel senso che non è possibile cedere la detrazione né alle banche né agli intermediari finanziari, quindi non è possibile fare un'operazione di tipo finanziario per farsi, per così dire, finanziare l'importo dei lavori, ma si può cedere la detrazione o ai fornitori, quindi alle imprese che fanno i lavori, intese in senso generico, o ad altri soggetti privati. Quindi non necessariamente condomini dello stesso edificio, non necessariamente parenti di colui che cede, ma proprio altri soggetti privati. Ovviamente poi è chiaro che spesso si andrà a ricadere sulle due tipologie che ho citato in precedenza, se non altro perché c'è più familiarità, quindi potrà essere magari il figlio che cede la detrazione al padre che ha un reddito più elevato o viceversa, o magari nel condominio ci potrebbe essere qualcuno che si fa carico di acquisire la detrazione del vicino, pagandogli ovviamente un corrispettivo in denaro con cui il vicino andrà a finanziare i lavori. Però insomma mi sembra una... Quindi è possibile una cessione condominiale in qualche modo, no? Come dicevi Cristiano, ma questo è completo, perché ci sono stati un po' di lentezze nell'attivazione di questa modalità di cessione. Sì, ci sono state un po' di lentezze, adesso ci sono tutti i tasselli attuativi. Diciamo che dal punto di vista pratico quello che deve fare il condomino che cede il bonus è informare l'amministratore di condominio, sul quale grava poi un obbligo di comunicazione alle entrate, perché naturalmente noi sappiamo che quando si fanno le detrazioni in ambito condominiale è l'amministratore che poi certifica ai singoli condomini l'importo detraibile. In questo caso l'amministratore, oltre a certificare l'importo detraibile, che in questo caso sarà a favore di colui che ha acquistato il bonus, dovrà anche comunicare alle entrate che è avvenuto questo passaggio, in modo che il fisco possa fare, come dire, possa fare i controlli del caso e in ogni caso possa avere traccia dello spostamento della detrazione. Allora, terminato e chiuso lo spazio pubblicità al sisma bonus, come ci contesta un'ascoltatrice che dice state facendo una trasmissione pubblicitaria questa mattina degli incentivi fiscali. Se posso polemizzare, devo dire che è peccato lasciar lì uno sconto quando lo Stato te lo consente. Del 75%, ma ne vogliamo parlare? Potendo, insomma, allora. Poi a prescindere dal colore politico di chi l'abbia stabilito e derogato, quando il fisco ti fa uno sconto, perché non utilizzarlo se si è nella condizione di farlo? Allora io torno a fare invece un po' di pubblicità Cersaie adesso, perché voglio capire che cosa c'è quest'anno di nuovo, Rita Campana, in termini di materiali che si utilizzano per l'arredo bagno. Le dimensioni delle piastrelle, ho visto che è un grande cavallo di battaglia di questa edizione, perché sono sempre più grandi, di spessore sempre più sottile, certo. Quindi questa è una novità dal punto di vista tecnologico, se vogliamo, del materiale di quest'anno, o era già in corso questo trend? No, devo dire che i grandi formati e anche lo spessore sottile, l'industria ceramica è già alcuni anni che lo sta proponendo, però proprio grazie a questo aumento della tecnologia riesce a portarlo a dei livelli di sicurezza, di resistenza, di durabilità sempre maggiori. Quindi abbiamo appunto grandissimi formati che possono arrivare anche a 1 metro per 3 metri, quindi lastre veramente che possono coprire superfici molto ampie, e passiamo dai grandi formati agli spessori sottili a magari invece prodotti che hanno formato ridotto, come ad esempio le cementine, che ci riportano un po' a quelle piccole piastrelle, non so se ve le ricordate, che c'erano nelle cucine, nei bagni di inizio Novecento, quelle piccoline con i motivi. Te le ricordi tu, Mauro, quando abitavi a inizio Novecento? Sono rimasto molto sorpreso da questa cosa della piastrella da 3 metri. Hai visto? Sì, se compri 2 sei a posto. Avendo, come dire, un soggiorno abbastanza grande, mi viene da chiosare, perché sì. Mi pareva anche difficile utilizzare un materiale così ampio, invece, cioè, per una piastrella avere una sì, una devo dire così che ampia. Stanno molto bene in ambienti ampi, perché lì effettivamente si riesce ad apprezzare completamente l'estetica di questo tipo di formati. In ambienti molto piccoli si va un po' a... Non riesce ad avere un colpo d'occhio adeguato. Esatto. Abbiamo anche tra le novità il parquet flottante, caro Mauro, e le ceramiche antibatteriche. Da dove iniziamo, Rita? Allora, intanto appunto, per quanto riguarda le ceramiche, ci sono alcune aziende che propongono ceramiche da posare a secco. Quindi la tecnica che si utilizza per il parquet flottante, che quindi viene posato sul pavimento esistente, può essere utilizzata anche per le ceramiche. Quindi vengono appoggiate sul pavimento esistente senza collanti, e questo comporta l'evitare di dover rompere proprio il pavimento esistente, e anche eventualmente di poterle rimuovere in caso di necessità. Per quanto riguarda invece le piastrelle antibatteriche, sono prodotti che hanno, attraverso l'utilizzo di alcuni tipi di materiali all'interno del composto, tipo in alcuni casi il biossido di titanio, concorrono all'abbattimento degli agenti inquinanti e batterici che ci sono all'interno dell'ambiente in cui vengono posati, o anche all'esterno. E sono adatte per determinati tipi di ambienti, tipo quelli particolarmente umidi, oppure... Sì, assolutamente. Possono essere posati ovunque, però in particolare ambienti come la cucina, come il bagno, ma ce ne sono anche da esterno per le facciate degli edifici, sono utilissime. È sempre un progetto molto bello quello della ristrutturazione della casa o del rifacimento integrale, ma certo che con tutte le opzioni che ci sono adesso ti viene un gran mal di testa, quindi bisogna studiarla bene, perché poi magari fai una cosa, ti penti perché ne trovi subito un'altra più bella, più interessante, più pratica, più... Ma vuoi chiedere più a Luca se ti regala anche una ristrutturazione, quello guarda, che ti vuole regalare? Io non volevo dire niente, ma deve sapere che è un tema che mi appassiona moltissimo. E così, e noi, caro Luca, te l'abbiamo detto. Ecco. Va bene. Sì, no, allora sono le 11:40. Ah, te lo vuoi togliere adesso l'adempimento? È il momento della poesia. Cioè, è il momento del sonetto. Posso dedicarti il sonetto? Se no, lo dedico a Luca, che poi te lo dedica. Non so, facciamo lo copia, una specie di cessione, non del bonus, ma del sonetto. Subito fate come se fosse a casa vostra. Posso avere una base? Grazie. Non so se da Milano hanno capito che stavamo mandando in onda. Ecco. Venimmo qui a Bologna da Milano per incontrar l'Italia che produce, e poi per raccontar con dire plano se in borsa si fa buio oppure luce. Con Radio 24 e il quotidiano, l'intento di chi scrive e chi conduce è segnalar, potendo in italiano, quel che l'attualità sempre ci cuce. Muoviamo orsù dal fisco alle rassegne, così, con autorevole leggerezza, dal bonus che chiamaron l'antisismico fino al cavillo che ogni slancio spegne. Allor verrà, come gradita brezza, l'aggiornamento atteso per il traffico. Due di denari. Mattone, no, Antonella sarà un cotto fatto a mano, un gres porcellanato, o, o di ceramica antibatterica, non so, potrebbe essere. O parche flottante. Comunque, guarda, Marco Lombardi, che salutiamo da Milano, Marco Lombardo ti ha subito accontentato. Hai chiesto il ballo del mattone. Hai visto il ballo del mattone? Come rigano dritti questi ragazzi. Devi averlo veramente terrorizzato. Allora ultima parte Sisma di... Bonus, ma anche Piastrella, Arredo Bagno, insomma, cerchiamo di mettere insieme un po' di temi di quelli che ci ospitano qui a Cersaie, insieme anche alla grande novità del momento, tristemente introdotta ed enfatizzata anche dalle vicende sismiche dello scorso anno, ma abbiamo questo sconto fiscale molto generoso per chi ristruttura la propria abitazione secondo criteri antisismici. Infatti Ermanno da Modena, a cui dovevamo una risposta, non può intervenire, chiedeva: vale anche per edifici commerciali e capannoni? Sì, è stato ricordato prima proprio dall'architetto e Rita Campana, è stato ricordato dall'architetto Campana. Confermiamo che questo tipo di sisma bonus, appunto per migliorare l'antisismicità degli edifici, la sicurezza sismica degli edifici, vale anche per questo tipo di attività. E invece abbiamo Giulia da Pordenone. Buongiorno Giulia. Buongiorno e grazie e complimenti per la trasmissione. Il tema è sempre il sisma bonus, ovvero la differenza tra ristrutturazione pura e ristrutturazione con ampliamento. Nel caso della ristrutturazione pura, io posso abbattere la casa completamente, ricostruirla anche con una sagoma differente, mantenendo però la volumetria, e ho diritto alle detrazioni sia per la ristrutturazione che per il sisma bonus. Nel caso della ristrutturazione con ampliamento e viceversa, devo per forza ristrutturare, cioè non posso buttare giù la parte vecchia e ricostruirla nemmeno con la stessa sagoma, ma devo mantenere quello che è la struttura esistente. Volevo una conferma di questo e dire una mia opinione, che secondo me è assurdo, perché ci troviamo alcune volte in situazioni in cui buttare giù e ricostruire mette sicuramente in sicurezza maggiore l'edificio piuttosto che andare a tamponare delle strutture, certamente. E quindi volevo capire, visto che è un argomento che mi interessa direttamente in questo momento, se sicuramente mi confermate questo, ovvero che io devo per forza mantenere, con un ampliamento, devo mantenere la parte vecchia così com'è, non basta, cioè non è sufficiente buttarla giù e ricostruirla esattamente mantenendo la sagoma e volumetria, ma... Devo chiarissimo intervenire. Giulia, grazie. Grazie. Con chi cominciamo? Sentiamo anche il parere dell'architetto. Cosa suggerirebbe di fare a Giulia se venisse presentato un caso simile? Di questo tipo. Sicuramente l'abbattimento e la ricostruzione porta poi a dei livelli alti la costruzione di appunto resistenza sismica e efficienza energetica, quindi potendo effettivamente seguirei questo tipo di percorso. Però chiaramente, se non è possibile l'abbattimento totale per tantissimi motivi, bisogna comunque riferirsi alle norme tecniche del proprio comune, perché sono molto vincolanti da questo punto di vista, e quindi consiglio sempre di appunto appoggiarsi a un professionista che segue il caso specifico del proprio comune. Temo anche che poi ci siano dei vincoli, potrebbero esserci delle zone, in Italia ce ne sono molte, certo, dove sussistono dei vincoli anche di tipo storico architettonico. Assolutamente. Gli immobili di questo tipo sono ancora più vincolati a livello di ricostruzione. Alcuni non possono assolutamente essere abbattuti e ricostruiti, ma soltanto ristrutturati. Quindi bisogna vedere che tipo di immobile è, dove si trova, se è un'area vincolata. Per questo che dico che sono tantissimi fattori da valutare e che vanno valutati attentamente insieme a un professionista e insieme alle norme tecniche del comune di appartenenza dell'immobile. Daniele da Modena, che è un po' sullo stesso tema, credo. Buongiorno Daniele. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Avete risposto in parte. Quasi. Anche lei vuole rifare completamente la casa? Esattamente, però le chiedo un'altra cosa in proposito: da quante unità abitative si intende condominio? Due comprese o oltre le due unità abitative? Questo lo chiediamo subito a Cristiano Dell'Oste. Che è un tema che ricorre peraltro. Eh sì, certo, perché comunemente sappiamo che in base alla normativa sulla riforma del condominio oggi è obbligatorio avere l'amministratore solo quando ci sono più di 8 condomini. In realtà, dal punto di vista del codice civile e anche ai fini della detrazione, che è quello che a noi qui interessa, basta che ci siano due unità immobiliari per avere delle parti comuni, appunto comuni tra le due unità, e quello è un condominio ai fini della detrazione. Quindi la villetta bifamiliare, purché ci siano intestatari diversi, perché ovviamente se l'intestatario è uno solo non ci sono porzioni comuni, sono tutte porzioni esclusive, se ci sono intestatari diversi, quello è un condominio, ha delle parti comuni e può beneficiare della detrazione, appunto declinata con le regole per i condomini. Quello che cambia è la gestione poi pratica della detrazione, perché è chiaro, qui in questo caso non ci sarà l'amministratore che si farà carico di pagare l'impresa dopo aver raccolto il denaro da tutti i condomini, aver fatto un riparto delle spese, e non rilascerà la certificazione. Ma qui le entrate hanno dato ancora quest'anno delle indicazioni precise, andando a stabilire che non è obbligatorio che, ad esempio, per stare a questo caso, la villetta bifamiliare si doti di un codice fiscale, e può esserci un condomino che paga per conto di tutti gli altri e svolge la pratica. Allora, sì, no, tra l'altro si ritorna sulla questione della cessione del credito, no? Si può fare anche per altre spese? No, vabbè, no. Magari Lino le rispondiamo in un'altra circostanza, però ha subito stuzzicato gli ascoltatori, no? Questo procedimento di trasferimento tra amici dello sconto fiscale. Perché l'incapienza purtroppo è un malanno che quando ti prende, diciamo... È peggio dell'IVA che ti guarda. L'IVA che ti guarda è un malanno, ma anche l'incapienza dice la sua. Insomma, comunque una mancanza di vitamina B, di vitamina C, insomma. Abbiamo Daniele da Roma. Daniele in linea. Da Roma, l'ultima telefonata di oggi. Buongiorno. Senta, un'informazione, ma l'iter pratico, cioè sì, il bonifico, la certificazione, cosa bisogna fare per avere questo bonus? Il sisma bonus, beh, allora intanto farsi seguire da un professionista, certo, che certifichi che si stiano facendo i lavori di questo tipo, perché non è che, certo, uno ne può fare, non lo so, che ne so, rinforzare un po' un, no, muro portante per rita campana e farlo passare da intervento. No, no, assolutamente. La prima fase è appunto che è l'intervento di un professionista che stabilisce la classe di rischio di quell'edificio. Ecco. Una volta che è stata stabilita la classe di rischio, le classi di rischio sono dalla A+, che è quella meno rischiosa, alla G, che è quella più rischiosa. Una volta stabilito questo tipo di la classe, è che una viene graduatoria simile, esatto, a quella della certificazione energetica. Esatto, solo che in questo caso appunto stabilisce quel tipo di immobile, che tipo di rischio ha, certo, nel caso di un evento sismico. Dopo aver valutato e attribuito la classe, il professionista prepara il progetto, quindi interviene sulle strutture danneggiate o datate o quelle che hanno bisogno comunque di rinforzo. Si esegue il progetto, dopodiché avviene l'attestazione sempre da parte di un professionista della fine lavori e del collaudo, e dopodiché si può passare poi la richiesta della, certo, e a questo punto della detrazione. Il pagamento col bonifico. Il pagamento è... sempre con bonifico, sì, anche se lo fate con l'home banking, mi raccomando, utilizzate il canale dedicato per questo tipo di pagamenti. Tutti i parametri di legge vanno indicati. Chiedo anche il conforto di Cristiano, di solito tutti gli home banking hanno un canale apposito per i bonifici che vogliono usufruire della detrazione fiscale, Cristiano. Sì, esatto. In pratica, da questo punto di vista, il bonifico per il sisma bonus è quello per le ristrutturazioni edilizie. Di solito, appunto, nell'home banking se ne trovano due, l'altro è quello per il risparmio energetico. Va utilizzato quello per le ristrutturazioni. Bisogna inserire la partita IVA dell'impresa, il codice fiscale del beneficiario, che è il soggetto che appunto sfrutterà la detrazione. È sostanzialmente analogo a quello che abbiamo visto già in passato. Bisogna essere in regola, come diceva l'architetto, con la procedura edilizia, urbanistica, quindi i permessi del caso, che saranno tanto più rilevanti quanto maggiore è l'intervento che viene effettuato, e poi, diciamo, servirà in questo caso anche la certificazione dell'ingegnere o comunque del professionista incaricato, che attesta il miglioramento di classe sismica. Certo. Mauro, è un bel tema questo sul quale dovremmo sicuramente tornare prossimamente, anche se non veniamo a Cersaia, anche rimanendo a Milano, direi. Va bene, a meno che tu non debba partire via mare con Luca, però vediamo, perché già mi perché pare che... Perché non te la puoi fare da solo la trasmissione nel caso io non ci fossi, sei preparatissimo. Ma vediamo, sì, per il sisma bonus, magari sullo yacht però un giretto. Va bene, grazie, grazie a Cristiano dell'Oste. A Rita Campana, grazie a voi. Grazie a tutto lo staff di Badanti che ci seguono qui a Bologna, Mauro e a Milano. Un po' Aureggi e anche Barbara Bianchi. Davide Ciocia, Marco Lombardo e la Giulia Lauricella, poi credo che in regia ci sia Peter Bescapè, credo, faccio delle gaffe. Grazie a tutti, noi torniamo a Milano, buona giornata.